Volo pindarico numero 9. Questo pezzo è dedicato a tutte le donne deluse da uomini vigliacchi, ipocriti e manipolatori. Sottoscritto incluso, naturalmente. You're not at all what you seem. Tell me the truth, but you don't dare. Parole di una leonessa indomabile di nome Fiona Apple. Ecco a voi Sleep to Dream. E a seguire Fast as You Can. Racconta della violenza sessuale subita in giovane età, dove il trauma è splendidamente convogliato e superato in un fervente arrangiamento jazz. I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. Don't make it a big deal, don't be so sensitive. We're not playing a game anymore, you don't have to be so defensive. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you see. This body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. I let the beast in too soon. I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't smoke easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Soft in your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you in. My pretty mouth will frame the phrases that will disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free so fast as you can. Sometimes my mind don't shake and shift, but most of the time it does. And I get to a place where I'm begging for a lift, wild on in the just need a little because I let the beast in, and then I even tried forgiving him. But it still seems to bite again, again, again, again, again. And for a little while more, I'll start the uneven winds complaining, blame the Sterling. But if you're getting any bright ideas, quite dear, I'm blooming within. Fast as you can, baby, wait, watch me, I'll be out. Fast as I can, baby, late, but at least about fast as you can. Leave me, let this thing run, it's about fast as you can. Fast as you can. Fast as you can. Speranze ho. Attorno a me non vedo altro che cartelloni pubblicitari e riviste. Le parole vuote della gente mi assordano. Sono sola. Che speranze ho? Ho te. E per un giorno ci lasceremo tutto alle spalle. Saremo inafferrabili. Asciuga il sudore dai miei capelli e abbracciami. Non ti deluderò mai. Questo è un inno al potere dell'amicizia. Questa è una splendida elegia in bianco e nero. A voi Bikini Kill, Fortammirae. confini fra eterosessualità e omosessualità sfumano nella promiscuità. L'identità sessuale crolla, è un rapporto parassitario. Ma chi è l'organismo ospite e chi quello ospitante? È un triangolo di carne e lattice, piume, sudore. Noi tre siamo una cosa sola ormai e saremo inseparabili per tutta la vita. A voi type o negative, my girlfriend's girlfriend. Ma sì, giovani Spavaldi, fate pure festa, bevete e gozzovigliate. Non sapete che sta per venir giù una pioggia mandata dal demonio che risveglierà i morti? Non vedete che le bare si stanno già scoperchiando? Ecco a voi, dal film Il ritorno dei morti viventi, 45 Grave, Party Time. Let's go! quanto si è discusso sulle profezie di George Orwell, certamente ha indovinato molto. Ad esempio il superamento delle differenze ideologiche fra le potenze mondiali e poi la acculturazione che sta riunendo tutto il mondo sotto un'unica bandiera nera. Poi la presenza pervasiva dei sistemi di videosorveglianza, al cui confronto il grande fratello è un adolescente voyeur che spia la sorella maggiore nuda dal buco della serratura. Nel romanzo 1984 le persone erano pienamente coscienti di vivere in un regime totalitario. Ed era proprio questa consapevolezza, questo pathos a mantenerle vive ed umane. Oggi le cose stanno molto peggio perché il potere non si mostra più, si è fatto più subdolo, penetra nelle coscienze strisciando, abolendo tutti i tabù, specie quelli sessuali, elargendo false promesse di godimenti e possibilità illimitati, vedi slogan del tipo Life is now, esso instilla nella gente un falso senso di libertà. E così tutti ci illudiamo di essere padroni delle nostre vite. Orwell, poi, non poteva prevedere che saremmo stati noi stessi a scegliere la nostra schiavitù. Mi riferisco, all'avvento dei social network e all'abolizione della sfera privata a favore di un riversamento totale nel pubblico. Sembra che non riteniamo più importante avere dei segreti, da rivelare solo alle persone più meritevoli di fiducia, creando così legami molto saldi. Mi chiedo quale ne sia il motivo. Forse perché, quando manchiamo di qualità morali e affondiamo nella mediocrità, allora ci mettiamo esibizionisticamente in mostra. Tutto questo il potere lo sa, e si serve di Facebook per sfruttarci spietatamente, proprio facendo leva sul nostro narcisismo. Bene, a fare da colonna sonora a questo desolante scenario distopico sarà l'elettronica angosciante di Soft Moon. Ecco a voi in sequenza, Sewer Sickness, Circles, Out of Time, e a concludere Primal Eyes. Cercate forse una massima che riassuma tutta la nostra turbolenta esistenza? Ok, che ne dite di questa? You don't know you're falling till you hit the pavement. Non sai che stai precipitando finché non ti schianti a terra. Eh già, parole di Sarah June, a voi. Till you hit the pavement. The highway is drawing me in. Time's running out the gravel thin. Time's running out the gravel thin. Time's running out the gravel thin. Time's running out the gravel thin. When I catch a train, go down south. Feel the summer wind in my mouth. The highway is drawing me. Solo bisogno che qualcuno abbia bisogno di me. Tutto qua. Ciao Roberta, queste sono parole tue, te le ricordi? Io ti auguro che un giorno qualcuno ti dedichi parole meravigliose che ogni donna vorrebbe sentirsi dire. Parole come: da quando sei arrivata tu, il cerchio si è chiuso. Ho detto addio a stanze stregate e ai volti nella strada. Quando io ero nel fondo della povertà, mi hai insegnato a dare. Hai asciugato le lacrime dai miei sogni e mi hai tirato fuori dalla tana. Io sacrificherei il mondo per te e guarderei i miei sensi estinguersi. Tu sollevi la marea su di me ogni giorno ed insegni ai miei occhi a vedere. È Bob Dylan in una delle più belle canzoni d'amore di sempre. Si chiama Wedding Song, il canto nuziale. Ciao Roberta. I love you more than ever, more than time and more than love. I love you more than money and more than the stars above. I love you more than madness, more than dreams upon the sea. I love you more than life itself, you mean that much to me. Ever since you walked right in, the circle's been complete. I say goodbye to haunted rooms and faces in the street. To the courtyards of the jester, which is a hidden from the sun. I love you more than ever, and I haven't yet begun. You breathed on me and made my life a richer one to live. When I was deep in poverty, you taught me how to give. Bad the tears up from my dreams, they pulled me from the hole. I love you more than ever, and it binds me to the soul. You gave me babies, one, two, three. What is more, you saved my life. Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife. The thoughts of you don't ever rest, they kill me if I lie. But I'd sacrifice the world for you to watch my senses die. The tune that is yours and mine to play upon this earth, we'll play it out the best we know, whatever it is worth. What's lost is lost, we can't regain what went down in the flood. But happiness to me is you, and I love you more than blood. It's never been my duty to remake the world at large, nor is it my intentions to sound a battle charge. 'Cause I love you more than all of that, with a love that doesn't bend. And if there is eternity, I'll love you there again. Can't you see that you were born to stand by my side? And I was born to be with you, you were born to be my bride. You're the other half of what I am, you're the missing piece. And I love you more than ever, with that love that doesn't cease. You turn the tide on me each day and teach my eyes to see. Just being next to you is a natural thing for me. And I could never let you go, no matter what goes on. 'Cause I love you more than ever now that the past is gone. Il regime è un regime democratico, però quella acculturazione, quell'omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente ad ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. Il vero fascismo è proprio questa civiltà dei consumi. È avvenuto tutto così rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È stata una specie di incubo e adesso, risvegliandoci forse e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Mi rendo un bel conto che se le cose continuano così, l'uomo si meccanicizzerà talmente, si alienerà talmente, diventerà così antipatico e odioso che questa libertà andrà completamente perduta. Ciao Pierpaolo, quanto avremmo avuto ancora bisogno di te, della tua forza e della tua dolcezza. Non c'è sulla faccia della terra uomo o donna impegnato in una lotta per la libertà che non debba dirti grazie per qualcosa. In fondo, le masse, come dicevi tu, sono composte ancora di singoli. Questo è l'omaggio dei Coil, band industrial inglese degli anni Ottanta. Barocca, sofferta, lancinante. La canzone si chiama Ostia, The Death of Pasolini. Stay up, the sea of Rome, is over, the white cliffs of Dover, and into the sea, the sea of Rome. You can hear the bells humming, you can hear the bones humming, you can hear the bones humming. As the throw his bones over, the white cliffs of Dover, and into the sea, the sea of Rome. And murder me, and I'll steal. Oramai il periodo di decadimento delle tecnologie a nostra disposizione si è drammaticamente ridotto, da decenni a un solo lustro. Il tempo ha smesso di scandire la vita, vinto dalla bulimia digitale è collassato su se stesso. Le cose sono diventate troppo veloci e imprevedibili perché un semplice uomo possa comprenderle. E io mi sento smarrito come un vecchio ferroviere. Sì, uno di quelli di una volta, per il quale i binari erano la via regia che lo conduceva all'orizzonte, o il filo di Arianna che la sera lo riportava sempre a casa dopo una dura giornata di lavoro. Sì, mi sento fuori dal mio tempo come un railroad man. A voi, una bellissima canzone degli Hills. Thank you. Da Sleep to Dream di Fiona Apple a Railroad Man degli Hills. Questo è stato il volo pindarico numero 9. Ciao a tutti.